Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Cari amici, eccoci qua per un altro appuntamento insieme all'Adico. Saluto subito al telefono con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Gianluca, oggi parliamo di bolli auto, esattamente perché poi ci sono dei periodi in cui abbiamo questa incombenza, ahimè, spiacevole, lo dico, perché certe volte abbiamo delle automobili che sono talmente vetuste e vecchie che ci permettono ancora di muoverci, ma che ci costano veramente tantissimo, e partendo proprio dal costo del bollo, no? Bollo che certe volte ci dimentichiamo di pagare. Sì, Francesco, sappiamo che insomma il bollo è una delle mazzate, diciamolo tranquillamente, che arrivano agli automobilisti, e insomma è una di quelle tasse odiate, tra le più odiate. Ecco, noi di recente abbiamo fatto un'indagine sulle tasse meno amate dai veneti e abbiamo scoperto, insomma, la prima è il canone, però insomma il bollo auto si piazza in una buona posizione. E oggi parliamo un po' di bollo auto perché noi partiamo da una storia, però in realtà credo che molta gente stia vivendo una situazione simile. Partiamo da una storia di un nostro socio di Chioggia che si è rivolto a noi perché ha ricevuto una decina di cartelle da Equitalia, tutte relative a mancato pagamento del bollo auto. Ora, rivolgendosi al nostro ufficio legale, insomma, al di là del fatto che noi diciamo che il bollo bisogna pagarlo, però ecco, rivolgendosi al nostro ufficio legale abbiamo scoperto che insomma di queste 10 cartelle ben poche erano da pagare, perché le altre erano andate in prescrizione, perché appunto abbiamo indicato tutto ciò che bisogna fare per poi ritornare da Equitalia, insomma, e spiegare che gran parte di quelle cartelle sono prescritte, quindi nulla è dovuto. Allora ecco, per spiegare bene come funziona questa cosa anche appunto ai radioascoltatori, comunque agli automobilisti, dobbiamo sottolineare che il bollo auto, come tutte le tasse automobilistiche, e al contrario di tante altre cose, si prescrive in soli 3 anni, quindi insomma stiamo molto attenti a questo, perché quando il credito è prescritto non è più dovuto, quindi insomma è sicuramente un vantaggio per chi non ha pagato, mettiamo, anche perché ecco, si sia dimenticato, e quindi insomma da questo punto di vista si trova a non dover pagare nulla. Quindi Gianluca, immaginiamo che il bollo dell'auto scade il 31 gennaio, no? Facciamo un esempio per capire quando l'eventuale non pagamento andrà in prescrizione. Il conteggio, che è sempre una cosa molto delicata e per la quale magari molti si illudono di essere fuori dalla prescrizione, però il conteggio è un po' particolare. Intanto sottolineiamo che il bollo va pagato il mese successivo alla scadenza, quindi entro il mese successivo alla scadenza. Se mi scade a febbraio, so che tra il primo e il 31 marzo devo insomma pagare la tassa, se no rischio appunto sanzioni, multe, eccetera. Ora invece, per calcolare i tempi della prescrizione, è un po' più complesso, perché il tempo della prescrizione si scatta dal terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. Però andiamo a spiegare bene, andiamo a spiegare con un esempio, perché non è così semplice. Mettiamo allora che io abbia un bollo che mi scade a marzo 2013. I 3 anni iniziano a decorrere a partire dal 1 gennaio 2014, quindi dal 1 gennaio dell'anno successivo a quando avrei dovuto pagare il bollo, e quindi da là si devono conteggiare i 3 anni, che quindi scadono in questo caso, nel nostro esempio, il 31 dicembre 2016. Quindi ecco, bisogna sempre stare attenti, perché appunto la prescrizione non parte dal giorno della scadenza, ma parte proprio dall'anno successivo, quindi insomma sono dei calcoli che devono essere fatti con molta attenzione, perché sennò si rischia di contestare una prescrizione che in realtà non esiste, quindi questo è molto importante. Quindi fondamentalmente, e qua correggimi se sbaglio, se appunto io dovevo pagare una cosa per, ritorniamo al 31 gennaio di un certo anno, cade in prescrizione al passaggio di 4 anni. Al passaggio di 4 anni, perché ecco, in questo caso il conteggio inizierebbe dal 1 gennaio dell'anno successivo. Certo. Fa proprio una scadenza proprio a inizio anno. Dal 1 gennaio dell'anno successivo io devo cominciare a contare i 3 anni, senza i quali, chiaramente, all'interno dei quali io non devo aver ricevuto nulla, ovviamente, perché se io ho ricevuto dei solleciti, delle comunicazioni, chiaramente i tempi della prescrizione partono dalla data, in questo caso, di quel sollecito o di quella comunicazione. Allora, siccome la questione è complessa e non bisogna assolutamente sbagliarsi, noi chiaramente, oltre al fatto che si può capire insomma quando ho pagato il bollo meno, perché succede anche di dimenticarselo, tramite i siti dell'ACI o dell'Agenzia delle Entrate, noi diciamo che bisogna stare molto attenti soprattutto a tre cose, a due in realtà. La prima cosa più importante è, appunto per capire se poi il credito è stato prescritto, è quello di accertarsi di non aver mai ricevuto nessuna comunicazione. Questo, Francesco, lo continuo a sottolineare, perché molte volte anche le comunicazioni o non ci si rende conto, oppure sembra di non averle mai ricevute, però se c'è la comunicazione, allora a quel punto non possiamo pretendere il sollecito della comunicazione, non possiamo pretendere di contestare la prescrizione. E poi un'altra cosa fondamentale, questo spero di essere molto chiaro, la data di riferimento da quando si riceve appunto il sollecito non è quello della ricezione, dell'editazione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell'ente di riscossione, mettiamo di Equitalia, agli uffici postali. Quindi io non mi posso basare appunto per determinare la mia prescrizione sulla data in cui io ricevo la cartella di pagamento, devo andarmi a vedere la data in cui appunto l'Equitalia o comunque l'agenzia di riscossione ha consegnato il plico agli uffici postali. Anche questo è molto importante, Francesco, perché effettivamente il rischio è quello di illudersi di essere nei termini in cui il credito o il debito anzi è prescritto, e invece per dei conteggi un po' particolari ci si rende conto che invece bisogna assolutamente pagare. Se ci si rende conto invece che non bisogna pagare, si hanno 60 giorni di tempo per presentare un ricorso. Qua chiaramente, per capire come fare, come muoversi, l'invito ovviamente è quello di rivolgersi magari alla nostra associazione, al nostro ufficio legale, che spieghiamo come muoversi anche su questo fronte. Sì, è sempre un po' arzigogolato, no, su queste cose, però aver qualcuno che ti dà una mano è importante. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, Adico di Mestre. Grazie a Gianluca Codognato, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.